luci di sera con le mani alla finestra. Sono innocente, giuro, persona scommessa. Non ho mai fatto male neanche ad una mosca. E tu mi chiedi ancora, ancora quella scossa. Ma non si fa. Le boccate d'aria fresca fra una cosa e l'altra. Quando tu mi guidi sei una bomba. Flusso di coscienza coordinato, uno sguardo su di te si impiglia. Resterai legato anche se ti importa poco o nulla. Per respirare. La sposa prega sulle panche della chiesa. Tu cambio scena nuda sui tetti di Roma. Bambole gonfiabili, ombre rosse fluorescenti. E il mio pudore a pezzi sotto lame e denti. D'aria fresca fra una cosa e l'altra. Quando tu mi guidi sei una bomba. Flusso di coscienza coordinato, uno sguardo su di te si incolla. Resterai legato anche se ti importa poco o nulla. Mayday, non so resistere. Mayday, scusami non è facile. Mayday, che fai? Non mi devi tentare. Mayday, che fai? Devi darmi un momento per respirare. Seduttore ambulante, nascosto davanti ai miei occhi, come un ricercato, come un latitante. Tienimi più stretta, non pensare, cos'è l'amore? Seduzione viscerale. Mayday, non so resistere. Mayday, sembra facile. Mayday, non so resistere. Per respirare.